dedicare una canzone. Non mi rompere il marrone. Sperimentazione sonora, creativa, divulgativa. Sperimentazione sonora, creativa, divulgativa. Bevi qualcosa e mangia un'oliva.

M2O. Musica allo stato puro. D'Agostino's in the house. It's about for you to bounce. D'Agostino's in the house. It's about for you to bounce. Lesson number one. Listen and repeat. D'Agostino. Gigi D'Agostino. M2O mi ha accanto, però sta attenta, non so. L'inizio, ti prenderai il vizio. La la la la la. Oh,

c'è Gigi D'Agostino, fermati, ascolta.

superare pregiudizi. Questi suoni sono privi di vizi. M2O. Never needed it.